Pancreon la ringrazia dell'ascolto. La pregherebbe ora di osservare la cromatografia su carta riprodotta in retro. Rileverà che Pancreon e il suco duodenale umano digeriscono le proteine liberando i medesimi peptidi, mentre la papaina dà luogo ad elementi diversi. Pancreon compresse è il classico preparato enzimatico a base di fermenti naturali. Digerisce come il succo duodenale umano, è protetto micellarmente ed è ammesso all'INAM. Pancreon Compositum, confetti, contiene, oltre agli enzimi, anche bile dispert, che ha l'identica composizione di quella normale, non è denaturata da azioni chimiche o fisiche e stimola la coleresi.